cinema continua su Radio Onda Rossa. Infatti le interviste audio che realizzo per il mio blog tuttascena1.wordpress.com andranno in onda in forma registrata, quindi non in diretta, il giovedì sempre dalle ore 14 alle 15, e l'indirizzo di posta elettronica resta lo stesso: visionari@ondarossa.info. Ben ritrovato Dario Bonazzelli, ci sei? Ci sono. Oh. Con te per parlare di un lavoro, The Space in Between, Marina Abramovic and Brazil, un lavoro che per voi, per i Wonder Pictures, è uscito nel 2016 ed è in programmazione ora a Live Alcazar qui a Roma. Con una programmazione che è partita il 29 gennaio, andrà avanti fino al giovedì 8, il che mi sembra una cosa buona, soprattutto per uno spazio, un cinema che è stato per un periodo chiuso e ha riaperto in varie sessioni, ora è di nuovo aperto. Intanto, per chi ci ascolta, Dario, raccontiamo un po' brevemente di cosa si tratta, cos'è questo lavoro. Sì, innanzitutto volevo appunto complimentarmi con le ragazze che hanno deciso di aprire una sala che ha sempre significato molto sul territorio romano e che era chiusa e ora porta una programmazione del tutto non convenzionale, e abbiamo deciso di aiutarle molto volentieri a prendere alcuni nostri titoli, in particolare questo di Marina Abramovic. È un film al quale siamo legati come gruppo editoriale, prima ancora che come distribuzione Wonder Pictures, per vari motivi. Marina Abramovic ci è molto affezionata. The Space in Between è un documentario che parla di Marina Abramovic e di come la sua, il suo credo, la sua performance, la sua creatività artistica si esprime. Si esprime portando al massimo i limiti di se stessa nelle modalità più disparate. Lei ha un rapporto con il corpo del tutto particolare, e lo si è visto già nel suo documentario precedente, Marina Abramovic, The Artist is Present, e in questo successivo Marina Abramovic si trova a ripercorrere un viaggio in Brasile. Infatti il titolo completo è The Space in Between, Marina Abramovic and Brazil, dove incontra tutte quelle persone e quei cosiddetti anche maghi, stregoni, che compiono riti ancestrali, dove si lascia andare a credenze arcaiche, superstizioni del Brasile, per interrogare se stessa e porre il proprio corpo in funzione di una di una scoperta, diventa medium esso stesso. Questo è un po' il cuore del film, che ha sicuramente un forte impatto sullo spettatore, perché Marina Abramovic è una persona che non ha paura di nulla, possiamo dire, e riesce sempre a spingersi oltre i limiti anche della percezione del dolore che siano possibili. Il documentario che è stato visto già in Italia come prima proiezione del Festival 2016, e poi in collaborazione con una grande società di distribuzione abbiamo deciso di portarlo nelle sale ad ottobre del 2016 con Nexo Digital, appunto, i loro grandi eventi sull'arte contemporanea. Ecco, questo rientra, come dicevi ora, in quei lavori che legano il cinema al mondo dell'arte, e voi fate uscire con delle uscite evento che avete pensato in questo modo. Ce le ricordi un attimo? Sì, I Wonder Pictures ha una piccola parte dei nostri film che rientrano in un progetto di I Wonder Stories, storie come questa di Marina Abramovic sono sicuramente esempi perfetti per questa tipologia di uscite. In questo caso questo documentario qua era parte del listino di Next Digital che ha, diciamo, il nostro principale competitor, nonché siamo i primi ammiratori della capacità che hanno di far esprimere e portare al pubblico delle storie d'arte in pochi giorni, lungo ogni mese per tutto il pubblico italiano e facendoli conoscere. In questo caso particolare è stata una collaborazione che abbiamo fatto nel 2016, è una collaborazione che ha visto non solo una collaborazione dal punto di vista di distribuzione, ma anche di festival, perché abbiamo lavorato assieme appunto al Biography Festival, che è un po' il cuore dell'attività di Wonder Pictures, dove Marina Abramovic l'abbiamo anche incontrata. Siamo andati a trovarla al Pachi di Milano in occasione della mostra delle performance che portò al Pachi di Milano nel 2016, dove abbiamo consegnato il premio Celebration of Lives, che è un premio che diamo ogni anno alle personalità principali che incontriamo lungo il nostro cammino come premio, ecco, alle loro opere, alla loro vita. Questo per dirvi che sono convinto che i documentari su artisti di questo calibro hanno sicuramente una efficacia e un incontro con il pubblico in questa modalità, nelle modalità degli eventi cinematografici, ma anche nella riproposizione come quella che propone appunto l'Alcazar, proprio perché non essere convenzionali permette di percepire, partecipando a queste proiezioni, la dimensione appunto di far parte di un evento, di una cosa che si ha la possibilità di vedere solo per poco. Ecco, proprio in questo senso la vostra collaborazione con il Live Alcazar, Dario, è specifica su queste stories, quindi sui documentari legati al mondo dell'arte? Non solo, abbiamo già portato la scorsa settimana un altro film che si chiama Due sotto il burro, che è uscito poco prima di Natale nelle sale, e ne porteremo altri. È una collaborazione che io mi auguro e spero sarà molto lunga, dove cercheremo di sicuramente di portare al pubblico di Roma alcuni titoli particolari che noi amiamo e che l'Alcazar ama, per far modo di farli rivivere e dargli di nuovo un pubblico oggi che nonostante i film escano al cinema e subito dopo in tante altre piattaforme, dalla televisione al VOD, a tutti gli altri canali possibili e immaginabili, ecco, si ridà una nuova dignità alla visione collettiva in sala, e questo è sicuramente un intento lodevole e che come Wonder Pictures non possiamo che spingere e aiutare. Benissimo, allora ricordiamo The Space in Between, Marina Abramovic and Brazil, fino all'8 di febbraio al Live Alcazar a Roma. Dario, un abbraccio e a risentirci presto. A risentirci presto. Ciao. Perfetto. Buona visione. Con noi Margherita Forleo di 01 Distribution per parlare del film The Post di Steven Spielberg uscito lo scorso giovedì. Intanto benvenuta, ben ritrovata. Grazie, buonasera a voi. Allora, raccontiamo intanto, no, ti chiedo subito i risultati di questo primo fine settimana del film di Spielberg. I risultati sono stati eccezionali perché il film è aperto con più di 2 milioni, 2 milioni e 3, pertanto è andato praticamente ad eguagliare i maggiori competitors europei, che su un film di questa grandezza non è assolutamente cosa da poco. Ok.

Bene, siamo in collegamento con Luca Facchini, regista del film Fabrizio De André, Principe Libero, che uscirà nelle sale cinematografiche il 23 e 24 gennaio e andrà in onda su Rai 1 il 13 e 14 febbraio. Allora, intanto Luca, benvenuto. Grazie, ciao, buonasera. Comincerei andando per gradi, tutte le tappe che hanno portato alla realizzazione di questo progetto, a partire dall'idea iniziale. Allora, l'idea iniziale è una cosa vecchia, faccio fatica a ricordarla perché abbiamo iniziato circa 8 anni fa. Scusate, ho un cane maldestro che il mio cane che abbaia come una fa. E il risultato però di quelli, diciamo, di quell'idea originale si è tramutata poi su carta, scrivendo con Giordano Meaci e Francesca Serafini, con molta attenzione, molto studio, varie riscritture, perché insomma comunque abbiamo affrontato temi diversi, ogni tanto ci arrivavano nuove cose che richiedevano spazio, altre invece lasciavano il copione. Fino alla realizzazione, insomma, finché siamo andati da Angelo, da Dori, a Dori ha seguito dall'inizio la scrittura, diciamo, e lavorava con noi abbastanza passo passo, nel senso che noi gliela facevamo vedere, gli spiegavamo perché facevamo delle cose piuttosto che altre, delle scelte in un certo modo o un altro. E poi la RAI, che ha abbracciato il progetto, devo dire, con grande entusiasmo e con grande fiducia, e ci ha permesso di iniziare a lavorare, ma chiaramente l'ultimo tassello prima di fare il film è stato quando ho scelto Luca Marinelli. Cioè, io l'avevo visto nel 2012, però eravamo ancora in una fase interlocutoria, e per cui però già allora mi era sembrato proprio l'interprete ideale. Poi quando è entrato nel progetto, chiaramente tutto si è chiuso e siamo potuti partire. Luca, uno degli elementi portanti è anche la musica, le canzoni e le parole di De André. Come interagiscono con la struttura cinematografica? Beh, noi abbiamo cercato di usarlo in maniera diegetica, diciamo, cioè che fosse proprio dentro il film quando canta Luca, e poi invece come contrappunto, come musicale, come colonna sonora vera e propria quando canta Fabrizio. Non ci sono mai momenti nel film dove c'è la voce di Fabrizio se c'è Luca, perché avevamo fatto questa, c'eravamo imposti questa regola per cui la voce di Fabrizio non poteva arrivare diegeticamente alle orecchie del protagonista, insomma, per non confondere proprio i piani, per tenere una divisione chiara, perché visto che Luca, nessuno di noi, io quando abbiamo iniziato a lavorarci, ho detto trovati Fabrizio dentro, troviamolo dentro, non andiamo a cercarlo fuori, non rincorriamolo, non cerchiamo di scioglierlo, cioè poi ovviamente lo dobbiamo ricordare, però è tutta una cosa che viene da dentro proprio, e abbiamo rifugito il più possibile l'idea di imitazione, perché sarebbe stata molto controproducente, secondo me, sbagliata, brutta, già vista. Senti, l'intervento e il lavoro insieme ai diretti interessati, a partire da Dori Ghezzi, com'è stato lavorare insieme e se sono poi contenti del risultato? Sì, no, direi che tutti siamo molto felici. Io avevo incontrato Dori su un altro lavoro, quando avevo fatto un documentario su Fernanda Pivano, dove Dori era venuta a cantare il suonatore Jones di Fabrizio accompagnata da TSM. Da lì poi siamo diventati amici per questa azione, abbiamo fatto anche vacanze insieme, ci è capitato di andare in vacanza insieme, per cui insomma diciamo che quel mondo lì osmoticamente lo intuivo, perché frequentandola tanto, essere andata in vacanza con lei dove andava con Fabrizio, a Lagnata piuttosto che a Santa Teresa di Verdura o a Milano, quelle cose lì piano piano insomma mi pervadevano in qualche modo, cioè le assimilavo, e quindi una certa visione della vita cominciava ad arrivare, e questa cosa qua l'abbiamo cercata di trasportare nella sceneggiatura quando ho portato gli scrittori a incontrare Dori, però abbiamo fatto un lungo percorso perché non volevo che ci fosse nessun tipo di imposizione, non volevo dire questi sono gli scrittori, adesso iniziamo, volevo che tra loro si creasse anche lì un'alchimia, che ci fosse sincera, che ci fosse un sincero rispetto l'uno degli altri, no? E quindi questo prende tempo, è un'altra ragione per cui ci si mette tanto a fare un progetto del genere. Ecco, proprio a questo proposito, a livello produttivo avete avuto mani libere? Sì, sì, assolutamente, cioè non so cosa intendi a livello. veramente un lavoro d'insieme, non è certo. Che questa cosa la si fa da soli, l'ho fatta solo io, perché non è così, è un lavoro d'insieme, però quando si lavora con la fiducia, con la stima, e quindi loro chiaramente tutti quanti, Angelo Barbagallo e la RAI, hanno capito che la direzione era quella giusta, hanno certamente lasciato, come dire, una carta bianca a cui si sono, come dire, ci hanno accompagnato, ecco, sì, in questo sì, percorso, sì. Però senza mai tensioni, devo dire, molto bene, con gran fiducia. Bene, bene. Luca, una doppia domanda. Che impressioni hai dell'arte di Fabrizio e poi rispetto anche al suo lato umano? Guarda, lì sull'arte di Fabrizio, in qualche modo, quello che rimane è proprio il modo che ha lui di guardare il mondo, che è un'assenza totale di giudizio, ma è una rappresentazione della realtà, spesso umana, spesso legata all'amore, alla libertà, ai desideri di, non so, cioè desideri quando senti Fabrizio, perché c'è un mondo bello che lui racconta senza giudizi, che è fondamentale, cioè quello che fa lui è di non portare l'etica nel moralismo, di non trasportarla nel moralismo, un tema che secondo me è centrale, poi una coerenza granitica, che è anche quello un insegnamento, appunto, mi sembra che questi siano i temi. La seconda domanda me la sono persa, però adesso. No, era sul doppio livello umano ed artistico, che impressioni. Potrei descriverlo come si è descritto lui, perché non l'ho conosciuto di persona, per cui sarebbe assolutamente un tentativo fuori dal centro, però lui diceva che gli sarebbe piaciuto che l'artista lo lasciasse diventare un uomo, perché probabilmente intendendo che l'arte è un prezzo che paghi, e quindi forse è quello, però io sono grato che l'artista sia stato così forte da lasciarsi questo. Sì, sì. Oh, Luca, questa doppia formula cinema e TV? Questo è un unicum, è la prima volta che succede. Noi siamo partiti per la TV, la RAI è stata quella che ha creduto per prima nel progetto, però naturalmente lo facevamo per la RAI 1. Scusatemi il cane. Invece poi evidentemente abbiamo raggiunto un livello abbastanza buono da poterci meritare un'uscita cinematografica, insomma, alla settima arte, diciamo. Siamo molto orgogliosi, siamo molto contenti, non è una cosa che accade spesso, anzi credo che Andreatta in conferenza stampa avesse detto che era la prima volta che succedeva, mi fido ciecamente di quello che ha detto lei. Bene, allora io ti ringrazio Luca, un abbraccio, un in bocca al lupo, ricordiamo Fabrizio De André, Principe Libero, nelle sale cinematografiche il 23 e 24 gennaio e poi in onda su Rai 1 il 13 e 14 febbraio. A presto! Grazie, grazie mille, arrivederci. Ciao. Fabio Venditti, regista del film Socialmente Pericolosi, che sarà proiettato sabato 10 febbraio al Nuovo Cinema Palazzo qui a Roma. Fabio, benvenuto. Salve, buongiorno. Per chi ci ascolta, raccontiamo brevemente la trama di questo lavoro. Sì, la cosa fondamentale è che si tratta di una storia assolutamente vera, che poi è la mia. Tutto nasce dall'incontro nel carcere di Sulmona con un boss della Camorra, boss che ha combattuto la grande guerra di Camorra degli anni Ottanta, Mario Savio, nel film si chiama Mario Spadoni. Io ero andato lì a fare un reportage nell'ambito del mio lavoro di giornalista su quello che veniva chiamato il carcere di Sulmona. Nasce un rapporto, anche perché lui mi chiede subito aiuto per i suoi figli, terrorizzato per la sorte dei suoi figli che volevano fare lui, e dopodiché lui accetta di raccontarmi appunto la pratica morra degli anni Ottanta vista dall'interno. Lui era proprio un generale di quelle truppe, e nasce, scriviamo un libro pubblicato dalla Mondadori alcuni anni fa. Dopodiché